che ragazzi sui gradini sì, si mano come te. Ah, scalati fino in fondo i pantaloni, con i capelli lunghi e la camicia fuori. Fermi tra un amico, fumi e ceri e provi, convinto che un domani tu, tu ne verrai fuori. Droga, rapina e furto ti misero in prigione, ma quando ne esci fuori riprovi l'emozione. Passano gli anni e tu continui a bucare quella pelle che grida di dolore. Confuso fra stornato ricordi il tuo passato, ma quel che aveva dato ya come l'hai bruciato. Ma torni per la strada e vedi, vedi che ragazzi sui gradini sì, tutti come te. Ah, sballati fino in fondo ai pantaloni, con i capelli lunghi e la camicia fuori. Droga, rapina e furto ti rimisero in prigione, ma quando ne esci fuori riprovi l'emozione. Passano gli anni e tu continui a bucare quella pelle che grida di dolore. Confuso e frastornato ricordi il tuo passato, ma quel che aveva dato ya come l'hai bruciato. Hai voluto tu morire e l'hai saputo fare con l'ultimo tuo buco il gong della vita. Hai voluto tu morire e l'hai saputo fare con l'ultimo tuo buco.